Wolf Trips, i viaggi del lupo. E siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Wolf Trips. Io sono Domenico Biancardi, un po' raffreddato oggi, devo dirti la verità. Poi abbiamo Cristina. Cos'è che c'è? Perché fai le croci? Perché devi starmi lontano. Eh beh, c'è un po' di spazio. Così poi non mi attacchi nulla. Germi. E poi abbiamo la Erika stasera. Certo, ciao. La nostra ospite. Che ogni tanto ci torna a trovare. Ciao, ciao. Oggi dicevo 2 marzo, sto guardando un po' cosa è successo. Cosa è successo? Ma nulla di che. L'attentato di oggi lo sappiamo, cioè cosa? Il pazzo di... No, vabbè, quello è una cosa... No, io guardavo cose del passato. No, viene presentato l'iPad 2, cosa interessante. Wow. Che culo, eh? 2011. E poi mi sembra che avevo visto anche il volo sperimentale del Concorde, che poi in realtà poi dopo l'hanno ritirato. Bello? Concorde, l'aereo quello supersonico. Sì. Che poi è stato ritirato. Quindi diciamo che è un po' una giornatina... Non è successo nulla di interessante. A parte, vabbè, 300 voci di persone morte, 800 voci di persone nate. Cioè, no, vabbè. Allegria, Vabbè, non c'è niente di... L'almanacco non ci dice nulla di interessante, vabbè. Intanto che aspettiamo che arrivi Fabio, non si sa. Ormai l'abbiamo Fabio, dato per disperso. Cioè, veramente, adesso gli mando io un messaggino. No, ma c'era la troupe di quella di della Barbara, D'Urso fuori casa sua che chiedeva un po' se l'avevano visto. Invece Tony so che sta arrivando, sì. Sta affrontando le bufere di neve e cose varie che, no, diciamo dai. Che con la sua andatura penso che per domani mattina possa arrivare in radio. Va bene, intanto che aspettiamo allora anche Tony, iniziamo a ascoltarci un po' di musica tranquilla e poi dopo iniziamo a affrontare Dormiamo. La nostra puntata di oggi. Dormiamo. No, vabbè, sai che all'inizio sai mettere un po' di musica un po' tranquilla come piace a me, un po' di sottofondo così, dai. Iniziamo così. Buonanotte. Oggi. Quindi dal nostro store, dicevi? Sì, stavo facendo un ricapitolo. Vabbè, allora scusa, già che ci siamo, intanto che li stai scrivendo, diamo anche i contatti in linea. Cioè, ah, on air, non in linea, allora. Scusami. Niente, potete ascoltarci via web, collegandovi al sito www.radiolupo.it/diretta video o dal vostro smartphone, tablet, scaricando l'applicazione Radio Lupo Solitario direttamente dallo store del tuo smartphone. Va bene, dai. Potete anche scriverci. Sì? Potete anche scriverci al 338-222-8983, così interagite direttamente con noi. Perfetto, perfetto. Intanto è arrivato anche Tony e la Debora. Ciao! La Debora. Va bene, dai. Allora facciamo così, ascoltiamoci il prossimo brano, che è un duo australiano, si chiamano Slumberjack. E il brano si chiama Afraid Unafraid. E poi dopo iniziamo un po' a parlare un po' del... entrare nel vivo della situazione. Entrare nel vivo della situazione. Allora, praticamente, vi faccio un po' l'assunto. Che culo. Beh, visto. Allora, stasera ascolteremo un po' di musica particolare, perché adesso, visto che Wolf Trips è un po' l'esplorazione anche musicale, andremo un po' ad ascoltare un po' di musica acid jazz. Meno male che c'è la mezzatonica stasera. Poi ascolteremo anche un po' di brani della mezzatonica. E poi dopo dobbiamo parlare anche di un evento, giusto? Evento? Un evento di cinema. Ok, ok, dai. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano e poi dopo ci iniziamo a sistemare un po', dai. Che problema c'hai? Niente, Erika, se stai male non puoi contare sui maschi, proprio guarda, proprio no. Minchia Rola. Ma che cioè, problema veramente? C'hai? Fammi sapere. Tu sei il mio problema, porca miseria. Va bene, Tony, tu che dici? Ciao, ciao. Alziamo i toni. Entrare così... Se il problema sono i maschi, vabbè, sì, sì, sì, siete infatti, sempre voi. Infatti, poi dite di noi, Meno male che l'Ottomasso arriva. Femmine contro maschi. Meno male che l'Ottomasso arriva, così magari si sfogano un attimino. Ma che? Ma che dici? Azzecca. Salutiamo Nello. Ma che dici? Ciao, ma che dici? Nello. Va bene, dai, entriamo un po' Colonna nella portante. Entriamo un po' nel vivo della serata. Noi abbiamo il disturbatore, perché è arrivato il Nello e c'è stato un po' di disturbo. Beh, sì, come sempre. Ha detto di chiudere le luci dopo. Ah, beh, certo. Okay. Che su sono accese le luci, quindi mi ha fatto il segno della chiave e su. Va bene, va bene. Sappilo. Vabbè, comunque entriamo un po' nel vivo della serata. Ti dicevo, stasera affronteremo un po' di musica acid jazz. Tu mi dicevi che è un genere comunque che già conosci. Loro secondo me non sanno niente, però sicuramente Zero. Un paio di pezzi a orecchio li conoscerai, sicuramente il pezzo successivo. Parla con te? Sì, ho capito. Hai che capito? Ce l'aveva con me. Io ho detto che il genere non mi sembra di conoscerlo, però le canzoni, boh, può magari essere, sì. Può essere. Io invece sono una capra, non so niente per lui, quindi va bene così. Dai, allora, dimmi, dai. Cosa dai? Hai mai ascoltato il genere acid jazz? Sai che genere è? No. Allora, che parli a fare? Fammelo ascoltare, poi te lo dico. No, poi dai, è un diciamo che è un'unione tra la musica jazz, ma non proprio il piffero o le cose, e la musica elettronica, quindi c'è comunque un qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo. Tu, Tony, che dici? Ti vedo bello silenzioso e no, ascoltavo oggi la tua descrizione, perché io bene o male l'ho vissuta proprio dal vivo questa cosa qua, perché è uscita nei fine anni 80 e sì, insomma ero teenager, e quella musica lì, anche se arriva dall'Inghilterra, è arrivata anche in Italia, è stata un'influenza con il genere house che iniziava a uscire fuori. Ma adesso siamo curiosi, eh. No, adesso sì, allora sono famosi pezzi. Tantissimo. Allora, non è che facciamo un excursus di 6 ore di musica, perché ce ne sono talmente tanti. Non siamo Radio Monte Carlo. Che diciamo che ecco, ho scelto 3 brani che a me piacciono parecchio, mettiamola così, di 3 gruppi anche diversi. Gruppi, sì, o sì. Quindi, giusto per dare un'idea. Sul terzo non sapevo che era considerato. Sì, è considerato. Oh. Allora, iniziamo ad ascoltare. Come si chiameranno mo questi? US3? Sì, credo di sì. Che sono scritti. Il pezzo più famoso è Cantaloupe. Ah sì, giusto. Invece noi andiamo. Invece tu hai scelto un altro pezzo. Ho ascoltato un po' tutto l'album. Il pezzo che mi piaceva era questo qua, Say You Belong to Me. Che poi Cantaloupe in realtà era buono per la radio. È vero. Vabbè. Andiamo ad ascoltarlo, poi dopo vedremo un po' che dire. Boy, I know that where we are is just a place to be. Seems like everything around is gone. It's just you and me. It's time for the show. We can do whatever, just feel free. But let's take the time to read each other's mind. It's on. I know that you've been watching me. I can't say that it's more than just a crush. I know where you'd like to be. I want you in my arms and feel your touch. I ever would've sapevo che eri un fan sfegatato, eh. Sì, sì, beh. Tra la prossima volta te li faccio scegliere a te i pezzi, scusa. No, vabbè, scusa. No, perché io mi sono fatto un po' una cultura, però non è che c'ho poi questa grande... No, ma io... Poi, era, cioè, diciamo che era il genere musicale che andava su tutte le cose, sul rap, su... C'è anche la sigla di Il Principe di Bel-Air. Ah, sì? Sì, sì, sì, sì, sì. Siamo sì. su quel genere lì, ecco. Ho capito, ho capito. Vabbè, bene. Vedo che ti è piaciuto, dai, un sì. po' il genere. Dai. Allora vedi ci che ci può stare, allora. Ci un po' aperitivo, di... è d'aperitivo. E te è sempre d'aperitivo. Musica d'aperitivo, d'aperitivo. C'ho fame. No, no, anzi, poi dobbiamo finire anche un discorso che abbiamo iniziato sabato scorso. Sì. Allora, andiamo a ascoltarci il prossimo brano, allora. Già che ci siamo, passiamo... questo è, diciamo, l'esponente principale, ecco, di questo. Qua invece andiamo un po' sul mainstream, dai. Buttiamola sì, lì così. Anche lui aveva iniziato un po' così in sordina, su quel genere che faceva. Adesso, diciamo, che lui ha sempre questi cappelli che non so come fanno a stargli in testa. No, vabbè. Beh, Jamiroquai, dai. Adesso l'ha trasformato in qualcosa di più elettronico, no? Cioè, tutto. Oh, Jamiroquai lo conosco. Jamiroquai. No, che vabbè, ha dei cappelli sempre un po', diciamo, estrosi, mettiamola così. Ma lui è estroso. Lui è estroso, sì, sì, me lo sì, ricordo sì. quando ero tipo alta quanto sto banco. Eh sì, sì. Il brano non mi ricordo sinceramente di quando è Dynamite. Dynamite è un vecchiotto. No, sì, sì, sì. Non è nuovissimo. Lui è in giro da 25 anni, dunque si potrebbe dire che fosse degli anni 2000, perché il primo Jamiroquai era molto più jazz, no? Sì. Young to Die. Mi sembra che è del 2000 e qualcosa. 2005. Quindi. Arriva l'aiuto fu velocissimo. 2005. E no, niente, andiamo a ascoltarlo. Diciamo che passiamo quindi un po' all'esponente un po' più, come di dicevo punta. Prima, mainstream, di punta del genere acid jazz. Andiamo a ascoltarcelo subito con Jamiroquai con Dynamite. Got a problem. Dai, questo qua si era più conosciuto. Tu che dici? Sì, molto dance riccio. Sì, era, usciva un po' dal, dall'esigenza. È un po' tamarro, no, questa è bella, questa ci piace. Sì, Dynamite. Dynamite, Dynamite. Non mi ricordo se era in qualche film, perché sai che lui ha fatto un sacco di brani con colonne sonore di film. Sinceramente non lo so se è stata inserita. Eppure mi ricorda qualcosa. Devo fare una ricerca, perché non sono sicuro. Secondo me è un film, in qualche pubblicità. In televisione, diciamo, l'ho sentita, sicuro. Perché in radio, vabbè, ovviamente nel 2005 quando è uscita. Sì, questi erano ha gli fatto ultimi bel... pezzi che lui faceva, perché poi si doveva liberare dalla sua casa discografica, la Sony, che non ci stava più dentro. E allora successo, vabbè. Non lo so, abbiamo le emergenze. È scappata. Va bene. Chiudiamo allora questo trio di musica Easy Jazz, giusto per dare un'infarinatura veloce. Insomma, abbiamo deciso di fare anche questi viaggi nei generi musicali. Iniziamo oggi con questo genere, poi vediamo i prossimi generi. Non vi svelo niente, magari darò qualche informazione sulla pagina Facebook. Bisogna tenere sempre la suspense. Giusto. Bene. Allora, loro sono gli Stereo NC, non è questa la parola. Loro in realtà, effettivamente, stava facendo notare Tony, fanno più musica elettronica. Però questo brano in questione era collegato al genere sempre Easy Jazz, anche perché, diciamolo, essendo che è una fusione di generi, non è ben definito quello Easy Jazz, quello elettronica, quindi è sempre un po' sul borderline a livello di catalogazione del genere. Andiamo ad ascoltare quindi gli Stereo NC con il brano Everything e poi dopo vediamo di chiudere un po' il discorso. If a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you. Bentornati! Scusa. Mi hai fatto l'agguato. No, io mai. Siamo noi. Voi e mai. Tony, stasera fai paura. Lo so. Ai. Va bene, quindi abbiamo chiuso questa parentesi di Easy Jazz. Adesso sì, abbiamo letto mille generi, questa parentesi direi Tonic Spritz. Tony, io te l'ho detto che stasera non è serata. Allora, devi sapere, Erika, che l'altra volta stava mettendo a posto le cuffie e si è dato una cuffiata sull'orecchio, sull'occhio, e gli è diventato nero. No, stasera mi è andata bella forte, però te la sei data. Sì, infatti. Vabbè, intanto che Tony attenta alla sua. Pure l'altro, il suo compare là di fianco. Va bene. Uomini. Brava. Introduciamo, visto che siamo arrivati quasi alle 8:30, introduciamo allora il... A fatica. No, perché no? No, diciamo a livello di puntata no, a livello personale sì, un po' di fatica c'è stata stasera. Introduciamo allora il primo dei due brani della mezzatonica di stasera. Stasera ho scelto un pezzo che ci sta in linea con, la, con il primo, come dire, il primo step di questa AC Jazz di questa sera. Sì. Che c'è Cristina Man... Io di... È la disturbatrice. È la mezzatonica che mi sa che lei non è mica alcolica, la mezzatonica, eh? No, infatti è analcolica. Vabbè. Ma tu bevi e lei si ubriaca. Ma così, più o meno è capito? Così, Allora, il gruppo dopo arriva la birra. Ok. Il gruppo è un gruppo svedese. Sì. Si chiamano Coop. Sì. E fanno un po' di generi swing, electropop, queste cose qua. Sì. E hanno fatto questo pezzo che è molto famoso e lo trovi anche nelle varie compilation da aperitivo, queste cose le qua. Classiche compilation, quelle le sì. Aspetta, come si chiamano le sai quelle compilation dove si vedono sempre tipo le tizie in costume nel sì. Sai, compilation proprio da estate. Questa qua l'avevo trovata in una compilation degli inizi anni 2000 che si chiamava Sushi Bar. Ah, Sushi Bar, okay. Bar. Ne aveva fatte due bellissime e c'era anche questo singolo qua, me ne sono subito innamorato. Va bene, allora andiamo ad ascoltare Coop Fit Yukimi Nagano, che sì, ci sta già, bene sì. Sotto sushi. Infatti. E beh, poi il Giappone su un certo genere musicale. E il brano si chiama Summer Sun. Feel safe. You always shine. questo sì, sì, era proprio da aperitivo questo, dai. Infatti molto venire... relaxing, molto post aperitivo. Non so, a me viene, inizia a venire fame, non so, non so voi. Ma quella che, che metteremo dopo sarà molto più già da dormire. Da dormire. Ecco. Dormire. No, sì, adesso invece, infatti adesso ci riprendiamo un po', perché adesso la playlist è un po' più, più smossa. Più sì, sì, sì, adesso torniamo un po' al classico, alla classica musica di Wolf Trips. Oh, che bello. Tu cosa, cosa hai da dire, che ti vedo lì un po'... Niente. Ok, io volevo parlare con la mia amica Erika. Tutto dimmi, tuo, tutto tuo il microfono. Ecco, finalmente dimmi l'intimità io e te. Allora, dai, tutto bene? Tutto benissimo, perfetto, anzi. Perfetto, infatti posso raccontarvi una bella news. L'altro giorno ci siamo viste e me l'hai data in anteprima, adesso esatto, adesso la svegliamo al mondo. Allora, praticamente ho scritto la sceneggiatura di un film, di un piccolo film, diciamo, che verrà, si spera, proiettato durante un festival di cortometraggio che si farà a Sumirago. A questo festival è possibile partecipare, tutti possono partecipare, iscrivendosi al sito del comune di Sumirago, che è www.comune.sumirago.va. .it/eventi.html. Potete iscrivervi fino al 15 di luglio, dopodiché i film verranno proiettati in, nella sala comunale il 21 e 22 settembre e alla serata di premiazione verrà poi, seguirà poi la proiezione del, del mio film, diciamo, chiamiamolo così. Ma una curiosità, dica. Come si intitola? Il profumo del successo. Il titolo si può dire, dai. Vabbè, ascolta. Ah, ma lei, vedo, mi sa che lei già domenica sera la vedremo lì a Los Angeles. Per la... Sì, magari. Magari. Per cosa? Per gli Oscar. Buongiorno. Buonasera. No, no. Tony, ciao. Dorme. Buonanotte. Dici un po', dov'è che l'avete girato questo? Allora, in realtà lo stiamo ancora girando perché siamo messi ad un buon punto, però non abbiamo ancora finito. E lo stiamo girando tra Busto, principalmente, Legnano e anche un po' Gallarate. Ah. E vabbè, non possiamo dire niente di, di particolare, però non svegliamo niente. Sappiate solamente che sembra una specie di thriller drammatico, poi alla fine... c'è un finale che stravolge tutto. No, no, romantico non credo, no, che no, la Erika no, metta proprio un... no, non è proprio il mio genere. Una tecnica particolare tu che di... ne non è proprio sai. Il mio genere. No, no, tu non che dico... ne sono ta- io sono tanto romantica, però non so scrivere cose romantiche. Io scrivo solo cose cattive o divertenti. Ma tu sei dietro alla, alla, alla cinepresa o no, io dirigi? Sono dietro... il computer, io ho scritto il film, cioè nel senso che l'idea non era mia, io ho scritto il copione, poi una volta sul set io in realtà comunico e faccio la stupida con gli attori, li distraggo dal loro ruolo perché io faccio il ruolo del pagliaccio, soprattutto con l'attrice Sara, ciao Sara, non so se ci stai ascoltando ma fa niente, che non, ogni volta che mi guarda scoppia a ridere, io non chissà lo so. Quanti ciak dovete... Ma in realtà ripetere. Sono talmente bravi che tante volte è alla prima, è buona alla prima proprio. Però. Bene. Bene. Va bene, allora facciamo così. Allora ascoltiamo... devo venire io a fare la disturbatrice. Riprova. Esce bene, esce bene. Bene. Sì, sì. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, poi dopo ci racconti magari qualche aneddoto, qualcosa. Del, visto anche questa cosa qua del, dei numerosi ciak, dai. Andiamo a ascoltare Madeon con You Are On. niente, stiamo ascoltando Medeon con You Are On di Grammatic. Stiamo parlando invece con Erika del di questo mediometraggio. Ma no, sto dicendo cortometraggio, ma in realtà non era cortometraggio. No, in realtà è nato come un cortometraggio, poi col regista che è anche l'ideatore di questo film. Abbiamo parlato, abbiamo aggiunto altre scene, quindi non verrà mai un cortometraggio. Vabbè. Anche perché c'è un limite per dire se una cosa un cortometraggio, film. In realtà sì, se dura fino a mezz'ora è un cortometraggio. Dalla mezz'ora a un'ora, ai 60 minuti è un mediometraggio. E poi diventa se un film. Supera l'ora diventa un lungometraggio, quindi un film. È un po' come il disco. 6 pezzi, un EP. Più di 6 pezzi già inizia un album, LP. Long poi EP. Anche long, cioè anche il doppio album. Questo è il paragone... Che si bravi, può fare. Visto? Grazie. Bene. Sembriamo, due pirre, ma qualcosina la sappiamo anche noi. No. Sembrano, lo sono. Brava. Ok. Vedo che hai capito anche tu che sei nostra ospite. Bene. E niente, tu gli volevi chiedere qualcosa di particolare, giusto, Tony? No, se c'è stata una particolare tecnica delle inquadrature. Se ma c'è in una... realtà, allora, siamo tutta gente... alle prime armi, chiamiamo così, nel senso che non nessuno è un professionista, ce la posso fare, ok? A parte gli attori, diciamo che magari sono già stati visti da qualche parte, nel senso che i due ragazzi protagonisti, lui ha già fatto, è un modello che ha già fatto anche delle cose con il cinema, ha fatto la comparsa in qualche cosa. È già a suo agio davanti alla telecamera? Sì, abbastanza, diciamo di sì. Mentre lei ha fatto tanto teatro, è stata anche in tournée all'estero, canta, quindi comunque sono già persone di un certo livello, diciamo. In confronto poi al cast tecnico, che è veramente alle prime armi. Questo non vuol dire esperienza. Che avete anche una visuale molto più aperta, cioè sai, uno magari se studia tanto cinema, poi va su una certa direzione e ci sono i soliti cliché, no? Invece così magari anche essere... Io ho studiato cinema, quindi... Sì, però dico, magari la tua prima... è come il disco, il primo disco sei aperto, cioè non hai... Sì, esatto, cogliamo un po' tutte le cose definisci, che ci capitano, esatto, definisci sì. Il tuo genere, ecco. Quindi in realtà diciamo che stiamo un po' provando, cioè prima di girare la scena la proviamo a vedere come verrebbe col movimento di macchina, eccetera, anche perché stiamo registrando non con delle videocamere, ma abbiamo due reflex Canon con cui stiamo girando, quindi abbiamo materiale professionale, ma non proprio del cinema, diciamo. Sì, quindi... sì, beh, bisogna anche saperle maneggiare certe macchine. Sì, io con le telecamere non è che sono un grande, anzi, con l'immagine proprio zero. Le telecamere, guarda che non sono quelle lì del sistema di sorveglianza. No. Cioè, le telecamere. Ma si potrebbe fare un film solo con quelle cose lì, no? Potrebbe essere un'idea? No, nel senso come sceneggiatura, ecco. Si potrebbe fare tipo un piccolo corto sì. Che cosa captano le videocamere di sorveglianza. Vedi? Io già magari immagino... scopriamo un assassino, un omicidio solo guardando le immagini delle videocamere di sorveglianza. È come il film quello di che riprendeva praticamente un palazzo per 24 ore, mi sembra. Andy Warhol. Mamma, è vero. Ragazzo, Caspita, è preparatissimo. Io non lo sapevo neanche. Aveva fatto questo film praticamente dove riprendeva. No, aveva fatto un film dove riprendeva una persona che dormiva. Sì. È vero, sì. Perché doveva fare delle cose un po' scandalose, un po' particolari. Sì, e poi aveva ripreso invece praticamente un palazzo che si vedeva le luci che si accendevano e si spegnevano. Quello era il massimo. Si riattiva così. Io di Andy Warhol mi ricordo della scena di Men in Black, che invece è un Men in Black travestito. Sì. Vabbè, è un personaggio un po' particolare. Andiamo a ascoltare il prossimo brano e poi dopo, non so, vediamo un po'. Perché a me, sai, parlare di cinema mi ispira sempre. Poi abbiamo l'Erika, dobbiamo sfruttare cinema e musica. Cinema e musica, ci sta. Andiamo a ascoltare quindi Lucian, che mi stavo per ammazzare, con Do My Thing. Do my thing, giusto? Everything you want in the world, got a money tree in your backyard. Your mama said, honey, you can get anyone with those baby blue eyes and curls. Well, I don't think that's gonna help you, seeing that you don't know how. how to treat girls. Well, sorry to disappoint you, but you're not the only cute dude in the world. See, I am not some furniture that's just lying around. You take that sour attitude and wash it out your mouth. 'Cause I have got some things to do, it's time that I peace out. Now if you excuse me, can you let me do my thing? Yeah, I don't want your diamond rings. Yeah, can you let me do my thing? Yeah, I just wanna do my thing. Let me do my thing. Something you can play with, not a little chew toy when you are bored. I don't think that's gonna help you, seeing that you don't know how to treat girls. Well, sorry to disappoint you, but you're not the only cute dude in the world. See, I am not some furniture that's just lying around. You take that sour attitude and wash it out your mouth. 'Cause I have got some things to do, it's time that I peace out. Now if you excuse me, can you let me do my thing? Yeah, I don't want your diamond rings. Yeah, can you let me do my thing? Yeah, I just wanna do my thing. Yeah, let me do my thing. Quindi questo lo chiamiamo Mumbaton. Mumbaton. Il genere. Ha scoperto Tony che praticamente esiste un genere di musica house mischiata con reggaeton. Dato che lui odia il reggaeton. Infatti la Erika vedi che già... Ti piace, Cri, questo genere qua? Buonasera, vi siete ricordati anche? Vabbè, le biode come fai? Complimenti! Avete fatto girare il neurone! Bravi! Io ne ho mezzo. Bravi! Io l'altro mezzo, quindi ognuno ne riusciamo a farlo. No, ho abbassato un po' perché eri troppo in alto. Bravo, Adesso è giusto. Bravo! Silenzio. Grazie. Io sono proattivo, sono Vabbè, un regista proattivo. Vabbè, io parlo con persone serie, Erika. Sì, però parla davanti al microfono. Ok. Mi dica. Guarda che sono davanti al microfono pure così. Vabbè, poverini. Ascolta. Sì. Ma volevo sapere una curiosità. Mm-hmm. Il film è in presa diretta? Cioè quello l'audio? Che allora, il film tendenzialmente è in presa diretta. Sì? Cioè si gira sempre in presa diretta. Noi anche stiamo girando in presa diretta. Dopo, in fase di conclusione, quindi montaggio, revisione del tutto, si fa il doppiaggio. Nel senso che se c'è magari un po' l'audio brutto che si sente male, viene tolto e si fa il doppiaggio sopra. Però di base l'audio è sempre in presa diretta. Però bene, bene. E quanti microfoni? Un microfono. Uno solo? Un microfono, l'asta del microfono sopra gli attori che parlano. Perfetto, pensavo ce ne volessero di più. E no, il nostro film è un film piccolo, non siamo una grande produzione, ci sono 4 attori con qualche comparsata qua e là, però... Vabbè, diciamo però che... sai, i luoghi magari non sono sempre idonei. No, guarda, noi abbiamo girato anche tanto in esterni, però devo dire che l'audio è venuto bene fino adesso. Abbiamo avuto solamente pochissimi intoppi sull'audio, quindi... Poi vabbè, ovviamente quando lo riguarderemo alla fine lo vedremo proprio interamente, quindi decideremo se effettivamente doppiare qualcosa o lasciare l'audio originale. Però questo comunque avviene in un secondo momento. Sì, assolutamente, l'ultimissima cosa prima di dire basta, il film è finito. Ascolta, ma questa tua passione, sì, da dove è nata? Da piccolissima. Mamma, ti prego, non mi ascoltare, chiudi tutto, vai a dormire. Allora... Che film sono, scusa? No, nel senso, no, perché io in quando realtà... ero piccola non parlavo con nessuno, cioè ero veramente timidissima, non parlavo neanche con i miei genitori, neanche con mia sorella. E io praticamente mi passavo le intere giornate davanti alla televisione e mi guardavo qualsiasi cosa. E io mi proiettavo all'interno di quel mondo, cioè io volevo essere lì. Io mi ricordo quando guardavo Xena, io ero talmente presa in foga che quando guardavo Xena mi alzavo, urlavo come una matta e volevo essere dentro il film. Cioè io volevo entrare, dicevo a mia mamma che io quando ero piccola dicevo a mia mamma che volevo lavorare dentro la scatola. Per me la televisione era una scatola magica e io gli dicevo a mia mamma che volevo lavorare dentro la scatola, perché per me quel mondo era la magia. Cioè, lì dentro nasceva la magia. Quindi stai seguendo, diciamo, il tuo sogno nel cassetto. Assolutamente. Io ho registrato tutto. Cioè, io cancellavo vecchie videocassette e registravo sopra dei miei programmi, delle mie cose che mi piacevano e le guardavo finché praticamente non mi si smontava il nastro. La VHS. Della VHS. Ma tu cancellavi cose che hai registrato te o cassette dei tuoi genitori? Di tutti praticamente, è diventato tutto mio, io ho cancellato tutto, cioè un sacco di robe anche importanti, devo dire. Matrimonio, tipo la VHS, no, del matrimonio. No, quella no. No. Però ho cancellato un sacco di cose veramente. Adesso comunque no. Hai quelle VHS ancora a casa? Sì, ce le ho ancora, però si vedono tipo a zigzag, diciamo. Bisogna pulire le testine. No, perché no. È talmente consumata il nastro, perché continuavo a riavvolgere, parti riavvolgi, perché riguardavo tipo 100 volte lo stesso secondo per imparare a vedere dove usciva la luce, l'attore come entrava in scena, come... Io mi studiavo proprio queste cose qua. Però. Come i pazzi. Bene. Secondo me, psycho. Secondo me, Cri, questa qua arriverà agli Oscar. Non so da che parte, se sono scenografa. Ma in realtà in tanti mi dicono che dovrei provare a fare la regista, perché ho nella testa... Io non ho mai studiato danza. Però se ascolto determinati tipi di canzoni mi vedo proprio tutto il corpo di ballo che balla con dei passi specifici e io non ho mai studiato danza. Complimenti. Grazie. Però. E questo non è da poco, insomma. No, assolutamente. Cioè, è una bella cosa. Mi piace, quindi mi sto mettendo in gioco su una cosa che mi piace e spero... di arrivare da qualche parte. Vabbè, sicuramente, cioè sono sempre le piccole cose che fanno la differenza, quindi siamo con te, Erika. And the winner is Erika. Ok, dopo questi deliri di onnipotenza che speriamo in realtà che diventano anche tali, si spera sempre. Cavolo. Però sai, uno poi dopo deve anche un po' fare i conti, no? Con, vabbè, no, beh, io in realtà sto sempre un po' coi piedi per terra, infatti lavoro in media, guardo qui. Non è, quello è sicuramente una cosa giusta. Però vabbè, sognare male non fa. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano e te lo lascio annunciare questo, a te. Questo dai. È un po' tamarro, eh? Sì, andiamo sul tamarro. Allora, lui è Azzido da Bass. Azzido. Che praticamente quello lì è il compare quello che fa il kebab qua sotto. Sì, infatti. Ma perché sotto c'è il kebab? Oddio. Ah, siamo al piano terra. Questa mi fa paura. E la canzone è Doom Knight. Conosci? Timo Massa Radio. Sì, vabbè. Quindi proprio tutto. Usciamo proprio dalla, diciamo, radioedit.mp3. Ecco, quella lì è la versione proprio. Radioedit, quindi siamo in radio. Andiamo ad ascoltare Azzido da Bass. Those Night Timo Mass Remix. Watch. Ascoltarla tutta, eh? Ti facevo segno, entriamo. Ah, ok, ma... ok, pensavo che stai facendo il... cercavi il Q. Questo era delirio. E beh, la sindrome del DJ è anche quella. Sì, no, dai, la settimana è stata già bella pesante, quindi ci sta che stasera c'è un po' di delirio. Va bene. O no? Stavamo parlando con Erika di un po' di film, no? C'erano un po' di film nuovi, giusto? Hai visto un bel film nuovo? Ho visto un bellissimo film, candidato a tantissimi Oscar, ha vinto anche dei Golden Globe, The Shape of Water. Ma la parliamo forma poi dell'acqua. Dei Golden Globe, cioè nel senso... dell'Oscar al massimo. No, Golden del Globe... Golden Globe, io non capisco mai, quando ci sono i film che vincono i Golden Globe, poi li guardi... No, allora, in realtà i film che vincono... candidati che poi vincono il Golden Globe sono abbastanza carini, dai. Quelli che poi vanno all'Oscar, cioè i canadesi ne capiscono di più dei, nel senso che degli io americani tante volte il vado, cioè guardo i film candidati magari che hanno vinto l'Oscar e non sono tutti questi filmoni, più che altro sono dei cast stellari. Perché a me adesso viene in mente The Post, per esempio, quindi Meryl Streep, cioè comunque un cast della Madonna, ma il film tuppa micidiali, cioè nel senso, perché comunque non è un film per tutti, diciamo, contrariamente invece al film che ho visto io, The Shape of Water, che comunque è un film dato a tutti, perché hanno voluto comunque giocare sul fattore fiaba. Perché è comunque una storia assurda, perché è assurdissima, di questa donna muta che si innamora di una bestia marina. Cioè, che ha comunque delle fattezze umane, ma è comunque un mostro marino. E addirittura pare che sia una divinità marina dell'Africa, di qualche posto, insomma, africano così. Mi viene... un racconto di Lovecraft, una roba del genere. Ma è assurdo, cioè proprio tutto anche il come nasce questa storia tra i due personaggi non ha proprio minimamente senso, secondo io me. Dai, quindi... Cristina. No, pensavo che voleva dire... No, volevo... Ok. Secondo me è stato un film molto molto sopravvalutato questo. Uno non però... può neanche grattarsi adesso, cioè non può... No. Allora, no, non dico più niente. Direi più acqua in bocca a questo punto. Esatto. Oh, Erika. C'era un film, adesso mi avete fatto venire in mente un film che si chiama The Abyss, del 1989, che non se non erro fosse... Ah. Era anche in... ispirato da una storia di Lovecraft, visto che mi hai tirato fuori l'uomo, mi è venuto subito, che parlava effettivamente di mostri marini. Non vorrei che sia stato estrapolato da lì. Quindi possiamo, non c'entra, chiedere al regista. Beh, magari bisogna, sì, beh, sicuramente. Poi il regista è James Cameron di Abyss. Sì, ecco, sì. Come ha cambiato da Titanic, Avatar e poi. No, la cosa che mi... Io pensavo fosse un'altra delle storie della Marvel collegata ad Aquaman. Invece non c'entra niente. No, a parte che... Ma non, Aquaman è della DC Comics.

cioè, si legge nelle righe, dice back to Tony. Back to Tony. Cristina, non avevi... stavo parlando di pizza. Dicami. Non hai capito. Sì, pizza, cinema, sì, dai, lo sai. Io l'unica cosa che so è pizza e birra. Ma anche quello. Comunque, comunque mi state facendo venire in mente un'idea per un altro programma. Perché, devo dire la verità, a me piace molto il cinema. Poi vedi che ho sempre queste idee qua, quindi... Ah, pensavo di una pizza da sport. Anche no. No, ho in mente una cosa da fare stasera che è un po' trash, però vabbè, dai, sì, dopo vediamo se riesce. Tra l'altro, challenge. Tra l'altro volevo salutare la mia amica. Amicici. No. Amicici alla valla. La mia cuoricina, la Dee. Ah, la Dee. Ma devi di vederci. Ma... ci sta guardando, per sta quello guardando. Ciao, la De. Saluto. Ciao Dee. E infatti stavo dicendo, ma, là, ma sei lì seduta? No, l'altra, la Deborah l'ha salutata prima. Sì, sì. E... ciao, mi ha detto che ti conosce pure, quindi dopo ne parleremo. Facciamoci i fatti nostri. Sì. Oddio, mi ha detto, come si mi ha detto il tuo nome, quindi... come si chiama? Tranquilla. Secondo me... salutala pure te, ciao. Ciao. È venuta a comprare qualche computer ultimamente al Media World e l'hai trattata male. Aia. E si è segnata il tuo nome. Ai ai, ai ai ai ai. No, sto scherzando, non aiuto. Ti prendere male. Guarda che scherzando. Se me la tratti male, occhio. Perché ti faccio ecco, abbiamo un paiolo così. Quindi niente, allora chiudiamo la parentesi cinema, anche se in realtà ci devo pensare su, non lo so. Non ho capito che effetto era questo. Vabbè, è la mente di Domenico che pensa. Macina, bravo. Non abbiamo nient'altro di interessante da dire. Di nuovo, non c'è, non abbiamo detto che film nuovi, non ce n'è. Lei è andata a vedere un filmaccio ultimamente. Ma non ne parliamo stasera. Oddio, 50 sfumature di rosa. No. Però sai chi? Angela, scusa Cri. No, scusa. Pensavo che Erika è andata a vedere quel film lì. Ma no. Certi film sono solo per te. Se n'è andata, se n'è andata. Cri. Vabbè, intanto che recuperiamo la Cri, recuperiamo, andiamo a ascoltare un po' di musica nuova. Ah, Gorillaz. Gorillaz, il pezzo nuovo dei Gorillaz. Hanno vinto il Brit Awards. Devo dire la verità, io ho ascoltato tanti loro brani. Sì. Tanti album, tanti brani. Ni, nel senso. Non ti piacciono tanto. Sì, però. Cioè, non lo so, cioè, sembra sempre qualcosa che manca nei loro brani. Non lo so. Ci sono i brani, quelli famosissimi, sai, tipo quello lì del Contarancio. Sì, Feel Good, Che è ok. Che è bellissimo. Però poi, se vai a ascoltare il loro album, non mi dice nulla. Non niente lega con il resto. Bravo. Cioè, questo brano qua, in realtà, è bello. Si chiama Sleeping Powered. Powder. L'altro pezzo, no, mi sa che non c'entra niente. Ah, questo qua è il titolo. Questo qua è il titolo. Ma andiamo a ascoltarlo, vediamo un po' se voi dice qualcosa. Se poi dopo... manca qualcosa. No. Questo brano cerchiamo qua no. L'intro. Però vediamo, no? Vediamo un po' che mi dite. Aspetto il vostro parere. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? Get my tails on right, sit alone. reaching over the sun. Allora, Tony, che mi dici? Sì, è molto carina, no? Io sono più per le vecchie cose, però... A me, nel senso, non convince ancora appieno, devo dirti la verità. L'ho anche riascoltata, cioè, allora, solo la prima volta ho detto, ciao, la mettiamo in Wolf Trips, che mi piace. L'ho riascoltata oggi, boh. Non gli daresti il Brit Airways? No, non glielo darei. Vabbè, non sono io che decido. Per me no. No, anche per me no, sinceramente. No, abbiamo ascoltato di meglio stasera. Non prende, non lo so. Vero, so. Non li capisco, poi magari sono io che non li capisco. Vabbè, non è che... anche per forza deve piacerti tutto. Cioè. No, ma non è questione di piacere, è questione magari di capire un po' l'artista, quello che produce, perché tanta roba, sai, magari in tanti brani ci sono delle cose b-side che dici, se ascoltate così nel nulla, dici magari... Bisogna capire quanto c'è di Damon Albarn dentro nel progetto, sì, e quanto gli altri influenzano la musica, ecco. Allora, chiudiamo un attimino allora la parentesi cinema, mi è venuta in mente una cosa, ma il tuo blog... Sì. Il tuo mega blog che parla di cinema, hai fatto qualche recensione nuova, qualcosa di nuovo da leggere? Ma in realtà ho scritto degli articoli, ma recensioni. Nel senso che mi sono dedicata ad altre, cioè a collaborazioni con altri blog. Ah, okay. Ho scritto l'ultimissimo articolo che ho pubblicato, è stata una super novità per me perché io non capisco niente di moda. E ho scritto un articolo in collaborazione con un'altra ragazza e abbiamo fatto un percorso nella storia del cinema dagli anni 20 fino ad oggi, andando a vedere come evolve la moda, quindi l'abbigliamento degli attori, più che altro delle attrici, nel cinema. E io ho trattato la parte dagli anni 20 agli anni 50, quindi partendo da Teda Bara, quella di Salomè. Sì. Salomè, sì. Negli anni 20 fino ad arrivare a Marilyn Monroe e poi mi sono fermata lì. L'altra parte l'ha fatta l'altra ragazza con cui ho collaborato a questo articolo e per me è stata un'enorme novità perché mi sono dovuta informare sui termini proprio specifici dei vari capi d'abbigliamento perché io veramente sono l'ignoranza fatta persona su sto tema. Però mi sono divertita tantissimo. Potevi chiamare Carla Gozzi e Enzo Miccio. Ma anche no. Collaborazione con loro. Mamma mia. Ma aiuto. Come ti vesti? Shopping night, visto che è sera. Tanto noi li conosciamo tutti questi programmi. Tu non ti chiedere il perché. Non ti fare queste domande, però noi li conosciamo, o no? Va bene, non c'è problema. Senti, non ti fare queste domande. Erika, sì. Un film che parla di moda che ha cambiato il cinema, cioè, ci può essere tipo colazione da Tiffany, secondo cioè, me come stile, è con la veste Prada allora. Sì, beh. No, allora secondo me il film parlandoti da persona leggermente più acculturata adesso io ti dico Via col vento per un semplice motivo. Via col vento è stato il primissimo film che ha dato all'abbigliamento un carattere psicologico, nel senso che Rossella O'Hara, nel film indossa diversi tipi di abbigliamento. Nella scena iniziale la vediamo con un abbigliamento bianco, quindi si immagina la purezza, il candore, ma nell'abbigliamento bianco ha degli elementi rossi che incominciano a simboleggiare il fatto della sua passione irruenta. Poi abbiamo appunto l'abbigliamento rosso, abbiamo l'abbigliamento verde quando si trova in crisi, che insomma ha perso tutto e quindi utilizza per realizzare l'abbigliamento le tende di casa, quindi si ingegna e utilizza le tende di casa, per poi arrivare ad un abbigliamento un pochino più bianco, ma anche con delle parti in trasparenza, piuttosto che dei piumaggi vari che stanno ad indicare la sua colpevolezza. Quindi è un abbigliamento che ha un carattere psicologico, ha all'interno del film, che segna l'evoluzione del personaggio. Solo e lei o... questo, okay, solo lo... il personaggio, cioè, femminile, solo il perché personaggio lei femminile. Quella che ha la maggiore evoluzione all'interno del film, e quindi noi accompagniamo lei all'interno di questo suo cambiamento attraverso anche il cambiamento dell'abito. Ma lo pensavo così profondo questo sì. film. No, veramente. Via vabbè, col vento, sì, okay, dai. Sì, ma non questo punto per di vista. Per quanto riguarda l'abito, sì, ha segnato, secondo me, tantissimo proprio il cambiamento nel cinema. Sì, sì, è come colazione da Tiffany, che preso come modello di eleganza. È l'eleganza, per l'appunto. Sì, sicuramente segna un passaggio fondamentale. Ma anche lì il vestito è sempre... cioè, non ha un carattere, non ha in questo ecco, caso cosa. Una, cioè, pezzo, una diciamo, definizione psicologica, ecco, ecco. Sì, pezzo... cioè il personaggio che deve comunque simboleggiare la raffinatezza, eccetera, l'eleganza, e quindi sì, sicuramente lo maggiora ancora di più, però... Piano con i pugni, mi sta cadendo il microfono. Cristina, un film che ti ha ispirato magari nel vestirti? La tua, se c'è stato un film, io non ho bisogno di ispirarmi a film. Yeah. Sei la tua musa ispiratrice. Personal, yeah. È giusto così, che ognuno ha un suo stile. No, bene, io non è che ho uno stile in particolare, quello che mi sta bene prendo. Cioè, sì. Non è che... Beh, poi anche l'età che cambia, giustamente. Ah, è vero. Giusto. Si evolve. Te, Domenico? Cos'è stato parlando? Anche Domenico. Guardalo con la tuta. No, dico. Vabbè, stasera, no? Solitamente... ma quest'anno la tuta va un sacco. Va di moda, è tornata... Sì? Sì, sì, una cosa... No, il pantalone non... della tuta col tacco a spillo. Secondo me la tuta è sempre solo in casa. No, ma io purtroppo... Beh, ho visto settimana persone. Scorsa c'è stata la settimana della moda a Milano. Sì, esatto. Ciao Chiara Francini, non so se ci stai ascoltando ancora, o non ci stai ascoltando. Portala qua una sera. Ci vogliamo tanto bene, Chiara, mi manchi. Anche noi, No, ciao, io ho visto gente che si mette proprio la tuta con i tacchi. Sì, beh, lascia stare. Vabbè, sono... Beh, ma c'è qualche stilista a proposito di settimana della moda che aveva qualche anno fa proposto il tacco a spillo anche per l'uomo. C'era l'uomo in tacco in passerella. Erika. Una roba bruttissima. Vabbè, andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è un brano degli LP. È una tizia, no, non è vero, una tizia. LP. Che non è long play, ma non è anche Lello e Lost on You, però è un remix del 2017. Speriamo che ti piaccia, perché non so se Village Remix. Non so se sei molto per i remix te. Vediamo. Was falling tender, longing for the days of no surrender years ago. But now you know, smoke will reveal battle, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's wait till last autumn. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. Smoke will reveal battle, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's wait. vabbè, dai, non era male questo remix, dai. No, tutto sommato piaciuto, non era piaciuto. Meno è male. È arrivata anche la Debora ai nostri microfoni. Ciao. Intanto Erika, volevi fare un saluto, sì, giusto? Esatto, devo salutare la mia amica Silbet, aka Elena. Ciao Elena, che ci stai ascoltando, ciao, che ci stai guardando, ciao, non ciao, lo ciao, so. Ciao. Ciao. E ci ascolta anche. Esatto, che ci sta ascoltando o guardando anche. Vediamo, non lo so, comunque, ciao. In ogni caso. Allora, stavamo parlando un po' di news musicali con Tony, fuori onda. Stavano dicendo, allora, cos'era, a luglio si terrà il Tomorrowland, sì, questa festa della sagra dei tamarri, dai. Sì, infatti... Richiamiamola così, dai. Ribattezzata anche Tomorrowland. Tomorrowland. Che costerà, sì, tantissimo, tipo 300 euro. Io ho sentito 300 euro. Il prezzo italiano non lo so. Matta. Tra l'altro, c'era questo articolo che mi suggeriva Tony... Che evidentemente è già tutto esaurito. Cioè... Sì, è stato perché i biglietti sono rimasti aperti solo 24 ore. Cioè, è assurdo. Costano tantissimo, la gente li ha anche subito comprati. Sì. Quindi voglio capire. Vabbè, il Tomorrowland in Belgio, penso che in 10 minuti li fanno fuori, perché comunque arrivano da tutto il mondo. Sì, esatto. Cioè, so che qua in Italia l'hanno tenuto aperto massimo 24 ore, ma in meno di 24 ore era già tutto esaurito. Pensa a te. Senza sapere neanche che cosa c'è. Esatto. A scatola chiusa. Ma tra l'altro in Italia si dice che comunque ci sia un mega schermo che faccia dei collegamenti con poi il vero Tomorrowland. Quindi in Italia è un po' una specie di surrogato. Oddio, non lo so. È una specie di cinema. Erika, è una specie di cinema allo stadio. Mi sono persa questo eventone allora. Ci sarà. Sì, no, ok, però non ho il biglietto, quindi fa non niente, accederò. Ma c'è anche lo streaming anche su internet, sì, sì. Cioè senza pagare nulla. Vabbè, oh. No, perché tra l'altro un mio collega ha comprato i biglietti e mi fa, sì, oh, vado al Tomorrowland. E faccio, ma dove vai? In Belgio o in Italia? No, vado in Italia, figurati, vado in Belgio. E faccio, sì, va bene, ok, ma lo sai che in realtà, cioè, c'è un mega schermo, probabilmente ci sarà qualche DJ lì di Monza che metterà un po' di musica. C'è qualcuno di casa, c'è quello che c'ha l'impianto, no? Mette anche due dischi. Cioè, non magari manderanno te in avanscoperta. Sì, ma sì, ti immagini a me te di là, super guest star, sì, domenico. Sì, sì. Critichiamo tanto sta cosa, poi siamo, no, ma no, il tumore. No, l'ho sempre sognato. E poi sarete lì in prima fila. Yeah. Beh, è un po' come è successo quest'estate, mettiamola così. Non possiamo andare in altri dettagli per altri motivi, però poi dopo ne approfondiamo in fuori onda. Niente, io direi che adesso abbiamo concluso quasi, siamo a tre quarti della puntata, sì. Quindi ci sta bene l'altro brano della tua rubrica, sì, della tua rubrica. E questo è il bel pezzo bello lento, lei... Buonanotte. Sì? Il pezzo Buonanotte, sì. Il pezzo sì, Buonanotte. Volendo sì, però, sì. E sono i Morcì, vabbè, ma loro, a parte quella canzone famosa su Roma che hanno fatto... Roma di notte. Wasn't built in a day. Giusto, che è la più allegra, ecco. Il resto loro sono molto famosi per il trip hop, questo genere. E ci stanno bene anche diciamo uno scenario anche jazz, cioè, perché lei ha una voce molto bella. Mm-hmm. Lei Sky si chiama. Sì. E non so da quanti anni non fanno più un disco. Cioè, beh, lei credo che ormai è andata via definitivamente, sì, dal ma anche gruppo. Anche come gruppo, esatto. Sì, hanno esaurito la loro... Non li sento da tantissimo, veramente. Sì. E questo è un pezzo che ho scelto io per appunto... Sembrare la tua rubrica, diciamo, la mia rubrica mezzatonica. Sì, no, vedevo che c'erano i disturbamenti. Vabbè, andiamo a ascoltare quindi aspetta, basta, loro giocano a palle immaginarie. Infatti non capisco cosa sta succedendo. Vabbè, andiamo a ascoltare quindi Morcì con Moog Island. Stavo dicendo sbagliato, che è un po' tipo Monkey Island, questa cosa un po' nerd. Non lo so. Sometimes I get up feeling good, but greed gets me down. I try to think about the highs of freedom we found. When the business in your life don't sit with your soul, treat you like a child they need to control. The music that we make will heal all our mistakes and lead us. The music Dobbiamo riprendere dopo questo brano, dobbiamo iniziare a mettere roba un po' più pesantina. Scusa. La prossima volta mi porto gli stuzzicadenti. Vabbè, ma scusa, questo pezzo in spiaggia ci sta bene. Scusa. Questo più, diciamo, no, questo è proprio fine, cioè diciamo fine della giornata. Questa la uso per addormentarmi, esatto, alla sera. Quando sei sotto le coperte, che sei lì su. Effettivamente, così, sotto le coperte ci potrebbe essere davvero tanto. Cattivi, cattivi. No, realisti, Tony. Va bene, la prossima volta metto un pezzo, bum bum bum, è così. Ancora ci penso già io. La prossima volta porta un brano reggaeton. Reggaeton. Attenzione che intanto Tony sta assumendo la posizione tipo dell'urlo di Munch. Deborah. È morto. Ma ascolta, com'è che fai a sopportarlo, Tony? A fatica. Molta fatica. Vedi? Già dall'espressione si capisce. Siamo in vantaggio 3 contro 2. Sempre peggio qua. Tra l'altro, Fabio non ci sta neanche più supportando. Mannaggia lui, se no eravamo a posto. Vero. Ma che Fabio? No, Fabio Ruvido. No, perché qui abbiamo tanti Fabio che circoleranno o circolano nelle nostre amicizie. Salutiamo tutti quelli che. Fabio, Fabrizio, chiama come vuoi. Tanto sì, la base infatti è quella. Fabri. Bene. No, stavamo parlando sempre fuori onda di una bella roba in realtà. Mi dicevi che c'è stato il... cos'è che era, il 25 anni? No, i 45 anni. 45 anni. Di Dark Side of the Moon. Anni, Tony. No, non lui. Di un brano dei no, Pink Floyd. No, l'album. Dell'album dei Pink Floyd. Più, non ce la fa più. No, che veriva che... L'album... Sì, il triangolo, che già quello dovrebbe aiutarti a, esatto, svegliarti. Diciamo che è difficile, stasera è difficile, è un mondo difficile. Provato, no? La fame vuole la pizza. No, la fame in realtà no, è proprio un mondo difficile stasera, eh. È dura. Quindi niente, 45 anni, caspita, ne è passato di tempo. È un bel album, cioè, quello non è... Se il mio pezzo era Sono lento, per tutto l'album, ma loro sono psichedelici, dai. Sì, vero. Loro sono giustificati. Erano fattoni. Loro sono. Non si dicono queste cose brutte, si dicono che sono psichedelici, quindi sono stati giustificati da questo. Intanto io devo fare un altro saluto. A chi? Ai miei due amori, Ale e Chicco. Li saluto proprio un bacione da parte mia. Sì, sono due teppisti. Ciao Ali, ciao. No, diciamo che uno è un po' più teppista dell'altro, però allora mi i miei due innamorati sono quindi capite. Al cuore non si comanda, mi dispiace, ma ciao Domenico, sei stato eliminato. È tipo, tra l'altro, il Domenico, salutali ciao. Anche tu, che mi hanno chiesto se eri andato a far pipì. No, io non sono andato a fare la pipì. Ah, non si sa, qua. Sono rimasto sempre qua. No, io sono sempre qua. Io presenzio tutta la puntata. E poi, Tony, quando devi andare a far pipì, lo devi dire in diretta. Sì, c'è questo. Sì. La prossima volta sarò più attento. Anzi, la farò prima. E dopo io dovrei andare io a fare. No, perché è importante per il nostro pubblico saperlo. Giusto. Quindi se non ti vedono più, uno dice poi si preoccupa. Dove è andato? Che fine ha fatto? Magari sta andando fuori a ballare il reggaeton. Allora, l'ultima parte della puntata di oggi, di questa puntata molto finito, no? No, l'ultima parte, l'ultima mezz'ora, dai, l'ultima parte. Salutiamo anche quelli che verranno dopo. Ciao ciao. L'anno che verrà. L'ultima parte, oggi riusciamo a ascoltare un po' della classifica di Wolf Trips. Yeah! Oh, finalmente! Sentite il ascoltiamo gli ultimi, no, le prime quattro posizioni, incursori. Dai. Andiamo ad ascoltare quindi Post Malone con I Fall Apart di Medas in remix e la posizione numero 4. Ok, dai. She told me that I'm not enough, and she left me with a broken heart. She fooled me twice and it's all my fault. She cut too deep, now she left me scarred. So many thoughts going through my brain, and now I'm taking these shots like it's moving pain. Ok, stasera c'è un po' l'asilo Mariuccio, mettiamola così. Intanto sono arrivati gli americani qua in radio. Con l'Italo sono arrivati. Sono arrivati con l'Italo. Senti che c'è. Ecco. Infatti sono gli... Vabbè, dai, facciamo una sta battuta, visto che ce l'abbiamo in canna. Sono arrivati gli italo-americani, dai, vabbè. Devo dire? Dai, vai, dilla. Vieni. Allora, io che lavoro su Italo, siamo italo-americani, poi essendo che sono interista, quindi sono italo-americano made in Cina. Ok, China. Quindi ci vuole la medicina. Avevamo fatto praticamente una trasmissione seria per un'ora e 39 minuti. Sì. No, no, diciamola loro, sì, scusami, infatti, mi sembra giusto dire. Mi hanno proprio cagata, hanno voluto farla esagerata. Seria, allora, visto che tagliata fuori. Finire. Vai. Avete rotto le palle. Bravo! Di merda. Bravo! No. Siamo partiti come Eurostar, siamo passati a regionali locali. Ma neanche, è proprio sai quello lì di Fantozzi, quello che schiaccia. Va bene, facciamo dai. Così, continuiamo con un po' di musica, va, che almeno ci rilassiamo un attimino, perché qua vedo che posizione numero 3. La 3. Podio. Beh, sì, dai, siamo già sul podio. Che figo, dai, dai, dai. Il brano è Charlie Puth. Sto Puth sempre in giro. È con, proprio un Puth. No, con How Long Jerry Falk Remix. Anche lui aveva messo un mi piace sulla classifica. Ciao Jerry. Hi Jerry. Why you creep around on me? Why you creep around on me? Why you creep around on me? Why you creep around on me? Why you creep around on me? Why you creep around on me? Why you creep around on me? Why you creep around on me? How long has how long has this been going on? You've been creeping around on me. Why you calling me? Baby, how long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, babe. I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. I don't make it right, but I promise there were no feelings involved. No. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know how. Oggi c'è un po' di porto di mare, vedo gente che viene, gente che va, c'è un po' di caos. I treni non vanno e... Allora... E loro sono tutti qua in radio, a allora, è una stazione radio. Scusate. Questa è bella, no, questa ti è piaciuta. Stazione radio stupenda, dai. Guarda, è vale tutta non c'ho... la serata. Guarda, è perché non c'ho le... non c'ho portata di mano, diciamo, le cose qua, no? Perché il, sennò quello ci starebbe... per il biglietto. Scusate. Una pagata pazzesca. Ecco, era quella la, okay. Il senso era quello. Continuiamo con un po' di musica. O avevi qualcosa da dire tu? O sei rimasto a bocca asciutta? No, sono... Mannaggia te, mannaggia te. Sono rimasto a piedi. Sei rimasto a piedi. Quindi andiamo ad ascoltare la posizione numero 2, che è Ukiyo. Che ha, anche Ukiyo. Lui ha messo un like. Sì, è vero. Lui è australiano, un altro artista australiano. Quindi sta ascoltando anche lui, diciamo. Sì, sta senza anche traduzione. Giusto. Senza traduzione. Sì, anche perché ti immagini a fare un programma tutto fatto in inglese? tutte le cagate che dice, diciamo. Beh, ma non sta bene anche male, dai. Io non lo fa, io non parlo, ci se poi ti faccio la regia. Provare, facciamo, la prossima volta facciamo una piccola rubrica. Sì, di 2 minuti mi può anche andare bene. In inglese. Io posso dire al massimo something like this. Yeah. T'hai visto? Questo lo so dire. Number almeno questo two. Lo so dire. Number two. Felt the cold under my skin. I've hunted down for nothing now. And why does it always have to end like this? Be mystical but sensible, and I'll hold my tongue. Could it be another memory we've missed? If you feel nothing anymore, then walk away from this. And I thought I knew what I wanted. What makes you so damn comfortable will only end in tears. Oh, we got something like this. Of bones, but they hold nothing now. An empty cage to lock down everything you need. 3 wishes won't free me at all. You got my tongue, still I hold on. Here's everything we bleed. If you feel nothing anymore, then walk away from this. I thought I knew what I wanted. What makes you so damn comfortable will only end in tears. Oh, and we got something like this. If you feel nothing anymore, then walk away from this. And I non mi ricordavo, non mi ricordo da dove vengono. Australia anche questo, mi allora sembra... Occhio sì, Ocaio, Ocaio, Ughio, Occhio, che so. Poi mi sembra che avesse anche tipo sembianze un po' China, eh. L'avevamo visto non settimana scorsa, se era lui. Sì, è lui, lui. Sì, beh, è vero il nome, sì, Occhio, sì. E no, stavo pensando, chissà in Canada che tempo fa, visto che qua abbiamo ormai il... Beh, so che si è un po' ribaltata un po' la situazione. Infatti. Polo Nord è molto, molto più caldo. Purtroppo. Infatti ci sono le famose zebre del Polo Nord. Sì, vabbè, questa non l'ho capita. No, nel senso, ormai si è ribaltato completamente il clima, che da noi ci sono i pinguini e lì abbiamo le zebre. Infatti stasera mi sono vestito col bel dress code... Non so se avete letto. No. Ah, sì, è vero. Ma non ho capito però la cosa che avevi detto. L'ha capita la Debra, figurati che è grave la cosa. Dress code. No, cioè... dress code, ok, l'ho capito. Okay. Non ho capito cosa voleva dire. Allora, il pinguino praticamente è anche il, come dire, lo smoking. Sì. Allora, siccome stasera si parlava di acid jazz, musica fighetta. Di musica figa. Ho capito, adesso l'ho capita. Tanto abbiamo creato una nuova, diciamo, seguace della Lazy Jazz. Adesso mi sa che da domani ascolterà solo quella. Esatto, giusto? Sì. Cambierò tutta la musica della mia chiavetta, della mia playlist. E invece Tony ascolterà solo Mumbaton. Mumbaton. Che tu non sai che cos'è, visto che ti trovo qua impreparato. Ma poi anche qua un altro, il regista dopo è un esponente del reggaeton. Quindi saprà benissimo anche che cos'è il Mumbaton. Vabbè, sì. Dai. Sì. Vabbè, andiamo a ascoltare quindi l'ultimo brano di questa sera, che è Kendrick Lamar con DNA. Ancora numero uno. Sì, numero uno. Young Bae Remix. Beh, questo Kendrick Lamar, questo dai, è famoso. Questo è pugliese. Sì, Young Bae. Ai. This is my DNA. Viaggi del lupo. Io devo fare un appello al programma successivo. Ragazzi, mi volete nel vostro programma? No, dai. No, non ti voglio. Sam, no. Rispondi. Ma bisogna vedere. Mi volete? Mi hai spiegato come funziona, come si fa con i vecchi? Ci so già fare con i vecchi. Il problema è che lei fa quello di lavoro, quindi mi sa che... Cri. Ma non in quel senso, no, nel senso... Cri, volevo chiedere... lavorando tipo nelle case di riposo ci sa fare con i vecchi. Quello è il problema. Certo. Allora, volevo chiedere. Ti metto anche il catetere se vuoi. No, il catetere no. Vabbè, no, parliamo del gruppo cioè, che. Vedi con che gente sono qua. Parliamo io. Del gruppo che ci mi sarà capisci? Settimana prossima. Cioè. No. Allora, forse vengono perché dopo. Forse vengono. Se sentono il podcast di stasera, non so se verranno. E vabbè, dovremo ospitare un gruppo settimana prossima. Di cui come? Tu, Cristina, sei incaricata di fare le domande e poi per intervistarli. Tu non ti preoccupare. Lei è già pronta? Che tanto, se voi mi fate parlare, magari qualcosa di buono esce. Aia. Quando parlate voi è il problema. Aia. Cioè, forse non siamo chiari su questa cosa. Ripeto che stasera c'è la disfatta, non è una conclusione del programma. Vabbè, comunque, ospiteremo le mondane. Solo stasera. Questa sembra una sala d'attesa, direi. Chi è l'ultimo? Vabbè, ragazzi, Wolf Train. Ragazzi, ragazzi delle mondane, visto che sono due ragazzi, siete ancora in tempo a ripensarci, sì, per, sì, le interviste, sì, io ve lo dico. Cioè, se ascoltate, non volete venire, va bene, lo stesso, non c'è problema. Vabbè, comunque in teoria dovrebbero venire settimana prossima. Loro suonano un po' di tutto, sono in due, suonano tipo in, come se fossero sei persone. Ah, cavolo, che bello. Perché ridi? Perché ridi? Mica ho detto binario. Cioè, no, Tony è entusiasta solo quando parla lui. Solo quando parla lui. Quando comunque parlano, dice, gli altri, no, basta. Comunque poi chiudiamo, si dice entusiasta. Entusiasta solo quando parla lui. Va bene. Cosa ho detto? Vabbè, allora facciamo così, salutiamo, va, che sì, stasera abbiamo, dovremmo, mi anche dispiace, dovremmo lasciare le cose in anticipo, perché sennò non rispetto la parola data. Lasciamo il posto a sedere. Vabbè, allora salutiamo la Erika, che e non so se tornerà a questo punto nella vita quotidiana. Ma sì, dai, tornerò. Salutiamo la Erika, che ci tornerà a trovare quando finiremo, no, quando finirà il suo mediometraggio, esatto, ok? Quando sarà in fase di chiusura, vai. Ok, ok, dai. Salutiamo la Cri, anche se non se lo merita. Salutiamo la Debora. Ciao. Salutiamo Tony. Ti ha fatto salutare, a me no. Ciao. Vedi che ciao da Tony. E mi saluto io da solo. No. Lasciamo il posto a Wolfman Jack, che arriva dopo. Non avete ospiti stasera, no? Sì. Avete ospiti? Ok, quindi dalle 10 a mezzanotte, giusto? No, alle 11. Lui è partito. Alle 11. Tony è partito. No, sì. Facciamo i saluti perché devi tagliare. Devo ritagliare di nuovo tutto. No, non è vero, scherzo. Vabbè, ci sentiamo quindi settimana prossima con l'intervista e un altro po' di viaggi musicali, dai. Ciao a tutti.